Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione. Si giunge al settembre 1938, dopo la pubblicazione del Manifesto della razza. Il 4 settembre Mussolini redige di suo pugno la dichiarazione della razza e il 5 settembre i primi provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista. Questi provvedimenti sono firmati, sono leggi dello Stato, dunque firmati dal capo del governo Mussolini e controfirmati dal re. L'apparato legislativo è complesso. La prima legge del 5 settembre si occupa della scuola, il 7 settembre i provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri, il 23 settembre l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica, il 6 ottobre la dichiarazione sulla razza emessa dal Gran Consiglio del Fascismo che il 17 novembre diventa legge dello Stato e poi ancora il 15 novembre 38 l'integrazione in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza e poi il 29 giugno 1939 la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica, una precisazione di esclusioni che erano già state introdotte dalle leggi precedenti e questi apparati sono apparati definiti discriminatori perché distinguono i cittadini ebrei, le persone ebree dalle altre e le mettono sostanzialmente al di fuori del consesso civile. È una innanzitutto limitazione di diritti rispetto agli altri. Quindi in questi termini, oltre a essere leggi discriminatorie, sono già leggi persecutorie perché tolgono diritti, pongono ai margini, cambiano la vita delle persone. Sotto questo punto di vista, la dichiarazione sulla razza, votata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938, già citata e che diviene legge dello Stato, è di icastica eloquenza. Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alla razza camita, semita o altre razze non ariane. B. Il divieto per i dipendenti dello Stato e da enti pubblici, personale civile e militare, di contrarre matrimonio con donne di qualsiasi razza. C. Il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell'Interno. D. Dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell'impero. E poi uno specifico paragrafo dedicato agli ebrei. Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l'ebraismo mondiale, specie dopo l'abolizione della massoneria, è stato l'animatore dell'antifascismo in tutti i campi e che l'ebraismo estero o italiano fuoriuscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al fascismo. E ancora più avanti si dice che l'ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona. Dunque, da un antisemitismo tutto proclamato biologico, in realtà si passa a un antisemitismo che ha fondamenti politici. Dunque, lo scontro con gli ebrei è soltanto biologico o è di altra natura? Poiché è molto difficile definire una razza italica, in realtà in Italia, a fianco di un razzismo biologico proclamato ma poco dimostrato, si affianca un razzismo che è stato definito esoterico tradizionalista, che ha il suo principale teorico in Julius Evola. Un razzismo che sostiene che gli italiani, indipendentemente dalla loro provenienza, vivendo a lungo in Italia, condividendo tradizioni, essendo permeati da uno spirito arcano che fa parte di questa terra, che farebbe parte di questa storia, si trasformerebbero anche biologicamente, anche psicologicamente. Naturalmente questa tesi di Julius Evola è felicissima perché introduce qualcosa di misterioso, perché soffia sul fuoco del mito delle origini e perché consente di passare sopra a ogni esatta dimostrazione scientifica. Giornale d'Italia, 15 luglio 1938. Il fascismo e i problemi della razza. Le razze umane esistono. L'esistenza delle razze umane non è già un'astrazione del nostro spirito, ma corrisponde ad una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini simili per caratteri fisici e psicologici, che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti. Esistono grandi razze e piccole razze. Non bisogna soltanto ammettere che esistano i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistano gruppi sistematici minori, come per esempio i nordici, i mediterranei, i dinarici, eccetera, individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, l'esistenza delle quali è una verità evidente. Il concetto di razza è puramente biologico. Esso quindi è basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche e religiose. Però, alla base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli italiani sono differenti dai francesi, dai tedeschi, dai turchi, dai greci, non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia infine che persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze. La popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la nostra penisola. Ben poco è rimasto della civiltà delle genti pre-ariane. L'origine degli italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo dell'Europa. È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era 1000 anni fa. I 44 milioni di italiani di oggi rimontano quindi nell'assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un millennio. Esiste ormai una pura razza ariana. Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della nazione italiana. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera che finora ha fatto il regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del capo il richiamo a concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco o come sono, o affermare che gli italiani e gli scandinavi sono la stessa cosa, ma vuole soltanto additare agli italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extraeuropee. Questo vuol dire elevare l'italiano a un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità. È necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d'Europa occidentali da una parte e gli orientali e gli africani dall'altra. Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camitiche, stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra patria, nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato, all'infuori del ricordo di qualche nome. E del resto, il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono a un ceppo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extraeuropea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria civiltà degli ariani. le leggi discriminatorie italiane sono durissime. Si può affermare con certezza che sono più dure delle leggi discriminatorie tedesche, perché se i tedeschi sono stati più conseguenti dal punto di vista della persecuzione, la discriminazione che stabiliscono le leggi italiane è molto molto severa. Viene spiegata proprio nei giorni in cui queste leggi escono, non soltanto da tutti i giornali, dai grandi titoli che inneggiano al razzismo come un passaggio fondamentale della costruzione del totalitarismo fascista italiano, ma anche da un discorso di Mussolini fatto in un luogo non scelto a caso. Mussolini sbarca a Trieste il 18 settembre 1938 dal cacciatorpediniere Camicia Nera sul molo Audace. Naturalmente si evoca la conquista di Trieste del 4 novembre 1918, alla fine della Prima Guerra Mondiale. E si sceglie Trieste perché Trieste è un territorio di confine, perché Trieste è una città multinazionale, perché a Trieste c'è una componente della popolazione di cultura slava, slovena e croata. In piazza Unità d'Italia sono state radunate 150.000 persone, si diceva allora, comunque moltissime persone, camicie nere, fazzoletti, applausi. Il discorso di Trieste è il primo discorso pubblico di Mussolini nel quale si annunciano i provvedimenti antisemiti, definiti soluzioni necessarie per affrontare il, virgolette, problema ebraico in quanto problema razziale. E Mussolini spiega che per mantenere il prestigio dell'impero occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. E infine, l'ebraismo mondiale, dice Mussolini, è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni o peggio a suggestioni sono dei poveri deficienti. Se gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Il problema ebraico dunque è un aspetto di questo fenomeno. La nostra posizione è stata determinata da questi incontestabili dati di fatto. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Dunque, queste leggi espellono dalla scuola italiana la totalità dei bambini. Per esempio, a Bologna sono 37 gli alunni che vengono espulsi dalla scuola e che devono trovare la possibilità di continuare i propri studi in quella che è stata definita scuoletta ebraica, un'aula concessa in uso per questo scopo, per poter recuperare su questa mancanza di istruzione scolastica. Questo apparato di scuole parallele durerà qualche anno, ma poi con la occupazione dell'Italia da parte dei tedeschi non sarà più possibile nemmeno questo. Thank you. dal laboratorio di scrittura del progetto Voci 2018. Cara Rachele, vorrei che le ragioni di questa lettera fossero di quotidiana cordialità, ma entrambe sappiamo che il tempo in cui viviamo non ha più nulla del quotidiano vivere. È un lento compromesso per la sopravvivenza, ed anche per quest'ultima siamo arrivati a dover chiedere il permesso. Perdona le mie parole, che potrebbero sembrarti poco pesate, eppure parole come italiana, cattolica, maestra, madre, moglie, patriota, fascista, parole che prima mi descrivevano, mi delineavano come donna, parole di appartenenza sociale che mi facevano sentire protetta come cittadina, adesso sono diventate sinonimo di... Non ci sono sinonimi per la parola ebreo. Non è più una parola, è una malattia. Un gene che si trasmette tramite il terrore, lo sguardo, senza neanche avere l'opportunità di partorire una vita. Tu che sei moglie e madre avresti rinunciato a tuo figlio se avessi saputo che sarebbe nato ebreo, anzi figlio di un ebreo? Guardo mio marito e penso a quanto possa essere veramente egoistico desiderare una vita da colpevoli ignoranti della propria colpa. Guardo mio marito e mi sento ebrea. Dovrebbe essere un sentimento, una volontà, una scelta essere ebrei. Lo stesso sentimento che provo quando sono accanto a lui, quando mi tocca il ventre, lo stesso ventre di madri che hanno dato vita a noi italiani, cattolici, patrioti, fascisti. Se non fossi ebrea, non potrei essere tutto ciò. Quello che ci impongono come simbolo di inferiorità di razza a me fa sentire libera. A te che hai conosciuto il Duce e hai possibilità di contattarlo, chiedo umilmente di poter essere ricevuta da lui per esporre la condizione di estrema precarietà di mio marito. Con l'augurio di rivederti presto, mando un caloroso saluto alla tua famiglia. Con affetto. Aggiungiamo che il fascismo insiste sulla propaganda, non solo le leggi vengono applicate, vengono sequestrate case, vengono chiuse attività professionali, attività commerciali, vengono licenziati tutti i dipendenti pubblici e in particolare quelli del mondo della scuola e dell'università che sono riconosciuti come ebrei, ma vengono cacciati gli ebrei stranieri che si trovano in Italia. Erano molti, perché illusoriamente gli ebrei di altri paesi dove l'antisemitismo di Stato era cominciato prima si erano trasferiti in Italia. E poi c'era una forte presenza universitaria, una presenza universitaria che è stata molto contrastata. Per esempio il Resto del Carlino, per parlare ancora di Bologna, il 28 gennaio 1938 pubblicava un articolo durissimo contro gli studenti ebrei stranieri, ingrata invasione giudaica sono definiti, perché si sarebbero laureati a spese dell'università italiana per poi andarsene all'estero e diffamare la nostra nazione. Questo è il contesto della applicazione delle leggi antisemite. Sono state applicate. Forse è vero che gli italiani sono stati meno antisemiti di altri popoli europei, ma certamente nel 1938 hanno accettato l'applicazione della legislazione antisemita, hanno preso il posto dei loro colleghi licenziati perché ebrei, hanno avuto un vantaggio nelle libere professioni, nel commercio e nell'artigianato, potendosi avvalere del fatto che i loro concorrenti venivano cacciati via in quanto ebrei. Allora nessuno disse una parola. L'allenatore del Bologna, un allenatore di fama mondiale importantissimo che aveva fatto vincere al Bologna due scudetti e competizioni importantissime in quanto ebreo, viene allontanato nell'ottobre 1938. Pensate cosa accadrebbe oggi se un grande allenatore di calcio sparisse all'improvviso. Nessuno proferì verbo. I tifosi non dissero nulla, i giornali sportivi non pubblicarono un articolo, su tutto cadde il silenzio. Voci 2018-1938. La legislazione razzista in Italia dopo l'abrogazione.